di Simone Spezia. Al Movimento 5 Stelle Livorno e Civitavecchia, Forza Italia Perugia, al PD Bergamo e Pavia sono alcuni dei risultati dei ballottaggi. Sicilia ancora al voto, c'è tempo fino alle 15. Sentiremo le voci di vincitori e sconfitti. Tra poco, in effetto giorno, l'ex sindaco di Pavia Cattaneo, i neosindaci di Civitavecchia, Bergamo e Perugia. Analisi e commenti sul voto di ieri. Chiesti 6 anni di carcere per la madre di una delle 2 minorenni che si prostituivano a Roma. Di 16 anni la richiesta per l'uomo accusato di gestire il giro. Nuovi arrivi di immigrati sulle coste italiane, tra l'altro sono 50.000 dall'inizio dell'anno, furono 42.000 per l'intero 2013. I comuni siciliani sono in costante emergenza, Fassino dice senza precedenti. Finisce 5-3 per l'Italia, l'ultima amichevole prima del Mondiale contro il Fluminense, in luce la coppia napoletana Immobile e Insigne. Una buona giornata da Simone Spezia e benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, se volete commentare al 349-238-6666 via sms effettogiorno@radio24.it oppure se volete mi potete scrivere su Twitter Simone Spezia, naturalmente c'è anche la nostra pagina Facebook. Iniziamo da un quadro generale sui ballottaggi, dove si segnala una frenata quantomeno rispetto alle europee del Partito Democratico, anche se il PD sembra risultare vincente. Ci sono però dei casi particolari. Elisabetta Fiorito, buongiorno. Sì, buongiorno Simone. Allora, nel PD, diciamolo subito, pesano le sconfitte delle due roccaforti di Livorno e Perugia, andate rispettivamente al Movimento 5 Stelle e al centrodestra, ma i democratici conquistano invece molti comuni a livello di quantità, a livello di numeri. Il 60% infatti dei comuni con oltre 15.000 abitanti è governato dal centrosinistra, che governa anche i 19 capoluoghi di provincia, ed è già iniziata nel Partito Democratico l'analisi del post voto. Deborah Serracchiani, vicepresidente del partito, non nasconde l'amarezza per la perdita di Livorno, Perugia e Padova, ma parla comunque di risultato straordinario che conferma nel lavoro attuato dal premier Matteo Renzi. C'è motivo, dice però la Serracchiani, di riflettere rispetto a queste sconfitte. Per il presidente della regione Lazio Nicola Zingaretti nei ballottaggi prevalgono molto le vicende locali. Ricordiamo che nel Lazio il Movimento 5 Stelle conquista Civitavecchia dopo la vittoria a Pomezia, quindi due importanti poli industriali che possono dare del filo da torcere a Zingaretti. Pippo Civati fa notare che dove il PD si allea con il nuovo centrodestra perde nei ballottaggi come in Campania. Parla invece di successi di quadro positivo per i democratici, Emanuele Fiano per le conquiste di Pavia, Bergamo e Cremona, nonché delle regioni di Piemonte e Abruzzo. Simone. E grazie Elisabetta Fiorito. Facciamo un punto anche sugli altri partiti, sulle altre reazioni nazionali con Vincenzo Miglietta. Vincenzo. Sì, buongiorno. È un vero e proprio terremoto politico secondo il Movimento 5 Stelle, quello imposto dai ballottaggi a diverse città simbolo della sinistra. Si dimostra, commentano fonti parlamentari vicine a Grillo, che gli 80 euro hanno le gambe corte, ma al di là delle ironie, Simone, del momento, dal blog di Grillo si esprime grande soddisfazione per il risultato di ieri. In particolare si evidenzia l'affermazione di Nogarin e Cozzolino rispettivamente a Livorno e Civitavecchia. Vi aspetta una bella avventura, difficile ed impegnativa, ma sappiamo che la affronterete con la massima serietà e il massimo impegno. Così sul blog. A complimentarsi anche il sindaco di Parma, Pizzarotti, che scrive: più siamo e più saranno i risultati che porteremo avanti per il paese. Le altre forze politiche, quindi, dalla Lega, Maroni si dice favorevolmente sorpreso dal risultato di Padova e sfavorevolmente sorpreso da quello di Pavia, dove abbiamo perso, spiega il governatore della Lombardia, siamo stati penalizzati dalla bassa affluenza. Questione settentrionale aperta invece per Forza Italia. Esiste questo problema, riconosce Toti, che aggiunge: dobbiamo ragionare sullo sviluppo e sulla questione morale, che è inciso profondamente. È tutto, linea allo studio. Grazie Vincenzo Miglietta, saranno parecchi gli approfondimenti in Effetto Giorno che dedicheremo ai ballottaggi. Sentiremo in diretta Antonio Cozzolino, neo sindaco di Civitavecchia, Giorgio Gori, neo sindaco di Bergamo, Andrea Romizzi, neo sindaco di Perugia, quindi tutte e tre le parti politiche. E però iniziamo questi approfondimenti già da adesso con Padova, dove l'era di Flavio Zanonato era già finita quando era diventato ministro nei fatti. Sentiamo però lo stesso Zanonato intervistato da Marisa Labanca e poi il neo sindaco, il leghista Bitonci. Il risultato di Ivo Rossi riprende esattamente tutti i voti che aveva al primo turno al centro-sinistra con il calo fisiologico del 10%. Tornano i numeri, tornano le percentuali. Cos'è che non arriva Ivo Rossi? Noi pensavamo che si spalmasse in modo equo e avremmo vinto. Non arriva noi voti dei grillini, che invece tornano a votare e votano Bitonci. Allora, ha influito lo scandalo del Mose? Secondo me sicuramente sì. L'inizio di campagna elettorale era partito ovviamente con prospettive completamente diverse. Ho fatto una campagna elettorale proprio molto popolare, stando in mezzo alla gente, parlando con la gente, facendo una ventina di comizi, anche con 20, 30, 50 persone al colpo, dalla mattina fino alla sera, quindi una campagna un po' vecchio stile, però sentivo che le cose cambiavano, che c'è bisogno di una politica anche nuova. Questo è il quadro. A chi ci dice il centrosinistra ha vinto anche a Biella? Sì, ha vinto anche a Biella e tra l'altro ha conquistato anche Verbania e Vercelli e praticamente il Piemonte è un monocolore del Partito Democratico dalla regione ai comuni principali. Sconfitto, come si diceva, l'ormai ex sindaco di Pavia, cosiddetto rottamatore del PDL, Cattaneo, lo ha intervistato Lucia Maffei. Ma sinceramente non ho nulla da recriminare, né su di me né sulla mia squadra. Oggi credo che si paga pegno nell'avere un approccio responsabile e costruttivo. Chi invece ragiona sulle logiche contro capitalizza elettoralmente, soprattutto nei ballottaggi. Ma detto questo, il risultato si accetta, si guarda in faccia e si va avanti. Dove è finito il consenso che lo aveva portato ad essere nel 2013 il sindaco più amato d'Italia? Quello è un sondaggio in cui si dice l'apprezzamento sull'amministrazione. Quello c'è stato. Al primo turno, dal 17 di Forza Italia, ho preso il 47%. Lei ritiene sia stato un errore restare in Forza Italia? No, assolutamente. Poi nella vita bisogna dare e bisogna ricevere. Crede che la chiameranno ancora il Renzi di Forza Italia? Non lo so, diciamo che non ne facevo un motivo di vita prima e non ne faccio ancora oggi. Suo account Twitter è ancora Ale Sindaco, intende cambiarlo? Ma al momento no, poi sindaco uno lo rimane un po' per sempre, no? Così dunque Cattaneo, più avanti sentiremo altre voci di questi ballottaggi, intanto vediamo di analizzarli. Il punto di Stefano Folli. Stefano, buongiorno. Buongiorno Simone. Allora, al di là, poi anche di questo torneremo a parlare più avanti, però al di là del fatto che naturalmente l'astensione ha pesato moltissimo, sì. Si conferma il fatto che ormai l'elettorato è, come si dice in gergo, liquido, nel senso che l'appartenenza sembra quasi non contare più se a Perugia vince Forza Italia e a Livorno i 5 Stelle. Sì, bisogna vedere. Certamente i ballottaggi sono sempre un po' imprevedibili, soprattutto in un paese che non è tanto abituato a votare al secondo turno. Stavolta c'è stata questa fortissima astensione, però effettivamente, come dici, è uscita una Italia a macchia di leopardo in maniera del tutto imprevedibile, dove contano molto le persone, il rapporto locale che hanno stabilito con gli elettori e conta molto anche la capacità di fare una campagna elettorale che non sia ricalcata su quella dei grandi partiti. Infatti i grandi partiti in questa tornata hanno contato abbastanza poco, anche se naturalmente queste sorprese ci dicono, sia a destra che a sinistra, che occorre proseguire sulla via del rinnovamento dei partiti. È ovvio che probabilmente a Livorno ha pesato anche una struttura che, insomma, dopo 60 anni di usura si è prestata alla scossa del Movimento 5 Stelle, che però sappiamo essere molto su base locale, perché Grillo non ha fatto campagna elettorale per queste amministrative. Quindi insomma è una mappa complessa da studiare bene e da ricavarne poi delle lezioni per quanto riguarda il rinnovamento del sistema politico. Grazie intanto anche per questo commento in diretta al nostro Stefano Folli. Una notizia, ciao Stefano, una notizia appena battuta dalle agenzie, ci sono 3 persone che sono morte per un idrovolante che è precipitato in località Valle dei Forni, in Val Varrone, nel Lecchese. L'aereo era partito da Como, questa è la notizia appena battuta dalle agenzie. Noi restiamo sulla cronaca e parliamo delle richieste dei PM per la vicenda delle prostitute minorenni a Roma. A meno di un anno dalla vicenda che sconvolse uno dei quartieri bene della capitale con la scoperta di un giro di prostituzione nel quale erano coinvolte 2 ragazzine di 14 e 15 anni, arrivano le prime richieste dei magistrati. 16 anni e mezzo a Mirko Ieni, 8 mesi per uno dei clienti Gianluca Sammarone e 6 anni per la madre di una delle 2 ragazze coinvolte. Il processo, che si svolge con il rito abbreviato, vede alla sbarra in tutto 8 imputati, tra cui Nunzio Pizzacalla, ritenuto insieme a Iena promotore del giro di prostituzione, e altri 4 clienti. Sono uomini adulti, padri di famiglia, manager, professionisti, che pagavano tra i 150 e i 600 euro a seconda delle prestazioni delle 2 ragazze. Incontri in cui, secondo gli inquirenti, alle ragazze veniva offerta anche della droga. Sotto accusa anche la più grande delle 2 baby prostitute, avrebbe spinto l'altra a fare sesso per denaro. Marisa Labanca, Radio 24, Il Sole 24 Ore. All'estero è cresciuto ancora, raggiungendo quota 28, il bilancio delle vittime dell'attacco armato portato ieri sera da un commando del movimento Tehrik e Taliban, insomma i talebani pakistani, all'aeroporto internazionale di Karachi. Secondo le nuove cifre messe a disposizione dall'emittente delle forze di sicurezza, fra i morti dello scontro a fuoco durato oltre 6 ore vi sono 12 terroristi, 4 dipendenti dello scalo e 12 fra soldati e agenti della polizia. L'analisi di Alberto Negri. L'attacco all'aeroporto di Karachi, metropoli strategica del Pakistan, che ha fatto finora 24 morti, è la dimostrazione che i talebani riescono a tenere sotto scacco non solo l'Afghanistan, ma anche il governo di Islamabad. Eppure il risultato delle azioni antiterrorismo del Pakistan ai confini con l'Afghanistan e del fallimento delle trattative con l'ala dura dei talebani. Non dimentichiamo che negli anni 90 è stato proprio il Pakistan a dare via libera ai talebani del Mullah Omar, che continua a rappresentare, 13 anni dopo l'11 settembre, la primula rossa della guerriglia afghana. L'attacco di Karachi però rivela anche un altro volto del Pakistan, quello che a volte si considera di meno. Se è vero che Islamabad sfrutta l'instabilità afghana per influenzare i destini della regione, è altrettanto vero che è anche vittima di questa destabilizzazione. L'episodio di Karachi, certamente non l'unico di questo genere, potrebbe quindi essere un sanguinoso anticipo di quello che avverrà dopo il ritiro occidentale dall'Afghanistan. Questo il quadro dal Pakistan. Noi adesso torniamo all'Italia. Abbiamo accennato poco fa alle indagini sull'Expo e sul MOSE. Quanto possono avere avuto impatto, soprattutto queste ultime, sul voto? Anche di questo si è tornato a parlare oggi nel corso dell'assemblea di Assolombarda, ma non solamente questo. Assolombarda, sentiamo in diretta dall'assemblea, sta seguendo i lavori per noi, Claudia Vanni. Claudia, buongiorno. Ciao Simone, proprio così dall'assemblea di Assolombarda si è parlato soprattutto dell'etica, a questo richiamo all'etica, ma anche della semplificazione delle leggi, perché è lì che si insinuerebbero poi nei ritardi, si insinuerebbero le corruzioni. Ci si rifà quindi a modelli validi come quello della Svezia, e questo quello che ha richiamato il presidente di Assolombarda Gianfelice Rocca, che ha mandato un messaggio chiaro: fuori i disonesti. Stiamo facendo molto per Expo, per consegnare l'opera 20 ore al giorno su 2 turni, quindi già in questa fase si sta facendo delle deroghe alle leggi. Questo è un esempio di come per un obiettivo si possa ottenere una semplificazione, uno snellimento delle leggi. Sulla stessa lunghezza d'onda anche il presidente di Confindustria Giorgio Squinzi, che ha ribadito: lavoriamo nelle regole e chi non lo fa deve stare fuori. Un richiamo anche nei confronti del governo per delle politiche che hanno una pressione fiscale troppo elevata. Ha detto: abbiamo raggiunto il punto nel diagramma in cui più si chiede e meno il paese va avanti, quindi più tasse continuano ad essere poste sul banco e più il paese rimarrà ancorato. E poi, come dicevamo appunto, il tema della corruzione è stato al centro degli interventi, così come quello del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Graziano Del Rio. e un passaggio chiave possiamo ascoltarlo proprio attraverso le parole di Giorgio Squinti, presidente di Confindustria. La densità di questa sostanza, fatta di leggi, regolamenti, enti, tutti controllati dalla politica, che fa prosperare la corruzione, l'evasione, il malaffare. Non ci interessa sapere se gli imprenditori che corrompono lo fanno perché obbligati o per vero e proprio spirito doloso. Essi non possono stare tra di noi. Questo deve essere chiaro. Siamo noi i primi ad essere danneggiati. Così non si fa che assecondare una cultura assai radicata nel Paese che vede nell'imprenditore un disonesto e comunque uno che cerca di aggirare le regole. Non è così. Noi lavoriamo nelle regole e le rispettiamo, e chi non lo fa deve stare fuori da casa nostra. Così dunque il presidente di Confindustria Giorgio Squinzi. Noi adesso andiamo in Brasile, perché ieri c'è stata l'ultima amichevole test dell'Italia. Il nostro inviato. Hanno regalato all'attacco azzurro tutta l'effervescenza della loro gioventù e del loro essere campioni che provengono dal sud, e quando il pubblico di Volta Redonda ha intonato Funiculi Funiculà è davvero sembrato un omaggio alla loro napoletanità. Ciro Immobile e Lorenzo Insigne sono stati i protagonisti del successo azzurro sul Fluminense. Ciro, capocannoniere col Torino e poi subito emigrato al Borussia Dortmund, ha confermato di vivere una stagione d'oro con una tripletta e due assist che gli aprono le porte dell'11 titolare. No, ma sono cose che decide il mister, io sto facendo il mio per farmi trovare pronto sempre. Lorenzo invece continua la sua rimonta. Prima è entrato nei 30, poi nei 23 al posto di Giuseppe Rossi, e adesso anche lui sogna di mettere in difficoltà Prandelli, anche se non lo ammette. Oggi abbiamo fatto una grande partita, tutta la squadra uniti insieme, è stata una bella partita e siamo tutti a disposizione del mister, le scelte spettano a lui. Già, il CT, l'Inghilterra è alle porte e con Cassano e Balotelli a corrente alternata, hai visto mai che all'Italia non tornino subito buone il talento e la sfrontatezza dei due scugnizzi goleador? Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Mangaratiba. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. L'accordo con Etihad prevede 2200 esuberi per Alitalia. A dirlo è stato poco fa l'amministratore delegato del Torchio. Investimento da 560 milioni e accordo entro qualche settimana. A Movimento 5 Stelle Livorno e Civitavecchia, Forza Italia Perugia, al PD Bergamo e Pavia sono alcuni dei risultati dei ballottaggi. Sicilia ancora al voto, c'è tempo fino alle 15. Chiesti 6 anni di carcere per la madre di una delle due minorenni che si prostituivano a Roma, di 16 anni la richiesta per l'uomo accusato di gestire il giro. Parliamo di immigrazione adesso, ve l'abbiamo già detto nei titoli prima, ci sono stati nuovi arrivi nella notte, del resto sono ormai costanti, 50.000 persone dall'inizio dell'anno, furono 42.000 per l'intero 2013, questo per dare l'idea. Naturalmente la stagione di questi arrivi, di questi sbarchi, di queste partenze non è ancora finita, perché ci sono migliaia di persone in attesa in Libia di poter partire. I comuni siciliani sono in costante emergenza. E non solo loro. Allora, io saluto Carlotta Sami, che è portavoce dell'UNHCR, l'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati. Buongiorno e benvenuta ai nostri microfoni. Buongiorno. Vorrei capire qual è la situazione al momento, che polso avete voi, soprattutto dal lato dell'accoglienza a questo punto, perché se eravamo in emergenza l'anno scorso con 42.000 arrivi in tutto l'anno, immagino che adesso con 50.000 dall'inizio la situazione sia ancora più complicata. Sì, è proprio questo il problema dell'emergenza, perché se lei dice appunto che l'emergenza era l'anno scorso e l'anno precedente ce n'era un'altra, in realtà non siamo in una situazione di emergenza, ma è una situazione molto difficile ma strutturale. Circa 8.000 persone arrivate nell'ultimo fine settimana, siamo a 52.000 arrivi dall'inizio dell'anno e quindi stiamo arrivando verso i numeri del 2011. Però ripeto, questi aumenti nel corso degli anni si stanno verificando in maniera strutturata, per cui siamo da diversi mesi stiamo esprimendo preoccupazione sull'accoglienza e continuiamo ad esprimerla perché ancora non sembra essersi consolidato un piano che chiaramente non può essere un piano solo italiano, questo lo ribadiamo e lo sosteniamo in tutte le sedi anche europee, deve essere un piano europeo perché parliamo di rifugiati siriani, eritrei in primo luogo, di cui l'Unione Europea deve farsi carico perché hanno diritto ad essere accolti. Ci sono preoccupazioni, Sami, per la condizione sanitaria, insomma, anche delle persone che arrivano, vista la condizione poi nella quale si vengono a trovare nel momento nel quale arrivano qua? Sì, assolutamente non parliamo di preoccupazioni in termini epidemiologici, perché queste sono termini insomma che non si presentano, non è una questione che si presenta in questi termini, è una questione diciamo molto più legata alle condizioni di salute dovute al fatto che molte di queste persone, spesso donne e bambini, hanno attraversato negli ultimi sei mesi a un anno delle condizioni di vita estremamente difficili. Molti uomini sono stati torturati nelle prigioni siriane o sono stati torturati gli eritrei dai trafficanti, quindi necessitano spesso di assistenza sanitaria immediata in questo senso. In termini di identificazione di possibili malattie, diciamo, che si possono diffondere come il morbillo, cose di questo tipo, a bordo delle navi viene sempre effettuato uno screening sanitario e quindi vengono isolati i casi, questo viene sempre effettuato, ma noi siamo preoccupati dell'accoglienza specifica soprattutto di bambini e donne in stato di gravidanza. Sì. Un'ultima domanda che le voglio fare, che mi scrive qualche ascoltatore, me lo scrivono sempre, devo dire la verità, un dubbio mi scrivono su Twitter, ma a che è dovuto il raddoppio degli arrivi? Prima, aperta parentesi, purtroppo morivano in mare, cioè il concetto è l'operazione Mare Nostrum può aver incrementato gli arrivi e spinto come dire, le persone a muoversi di più, per così dire. No, guardi, le persone attraversano il Mediterraneo da anni, continueranno a farlo, e il motivo per cui è aumentato e soprattutto arrivano prevalentemente dalla Libia è che prima di tutto la guerra siriana sta diventando devastante. Noi abbiamo ogni secondo una famiglia siriana che si sta spostando dalla propria città. Quindi la tragedia siriana ha raggiunto dei culmini inimmaginabili e non gli viene data alcuna tipo di soluzione in nessun modo. E il secondo punto è l'instabilità di alcuni paesi del Nord Africa, in particolare l'Egitto, dove prima le famiglie siriane trovavano una qualche stabilità e adesso non possono più trovarla, e in particolar modo la Libia e quindi la concentrazione anche di reti criminali in Libia che favoriscono purtroppo il traffico di esseri umani. Grazie a Carlotta Sami, portavoce dell'UNHCR, Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati. Torneremo a parlare con lei nelle prossime settimane, perché l'impressione netta è che non finisca qua. Giorgio Gori, neo sindaco di Bergamo, buongiorno e benvenuto ai nostri microfoni. Buongiorno a voi. Allora, come si prepara e quali saranno le sue prime mosse? Insomma, è inutile che adesso stiamo a commentare la vittoria, eccetera, eccetera, immagino che sarà contento, ha già detto che il fatto che Renzi sia venuto a fare un comizio là ha avuto il suo impatto, evidentemente. Voglio sapere che cosa fa da oggi. Beh, cominciamo a ragionare sulla squadra, che mi sembra la cosa più urgente e decisiva poi per i risultati dei prossimi anni. Abbiamo tenuto un po' in parte la riflessione sulla composizione della giunta proprio per avere la serenità di finire la campagna elettorale nel modo migliore. È andata bene, adesso da oggi ci mettiamo a riflettere, ma brevemente, perché mi piacerebbe poter arrivare a battezzare la nuova giunta nel giro di qualche giorno. Solamente politici o ha intenzione di pescare dalla famosa, cosiddetta e ultra celebrata società civile? Ma anche dalla società civile, pur notando che già dentro le liste c'erano alcune liste civiche che sostenevano la mia candidatura, tra queste c'erano molte espressioni di società civile, quindi di persone non abituate alla frequentazione della politica normalmente. Quindi già ce n'è un pezzo, però secondo me nella giunta si può aggiungere qualcuno. Le prime tre cose che vuole fare da sindaco? Ma una cosa ha un valore simbolico. Bergamo è finita sui giornali nazionali recentemente perché un assessore della precedente amministrazione ha pensato bene di mettere una sbarra di ferro a metà delle panchine che vanno sul viale della stazione, per impedire ai senza tetto di potersi sdraiare, riposare su quelle panchine. È stato un brutto episodio che non ha portato buona immagine alla nostra città, per cui vorrei toglierle rapidamente queste sbarre di ferro, perché Bergamo è una città che ci è abituata ad accogliere le persone in difficoltà e ha grande generosità. Poi una cosa da fare certamente è preoccuparsi di rivedere le spese dell'amministrazione comunale. Le risorse non saranno molte nei prossimi anni, per cui quei soldi che abbiamo dobbiamo spenderli bene, quindi faremo una revisione di budget. Poi metteremo in piedi finalmente, visto che Bergamo non ce l'ha, un ufficio di progettazione europea che provi, come hanno fatto molte città, a raccogliere finanziamenti comunitari che possono essere fondamentali per le infrastrutture, ma anche per la cultura, per la mobilità. Tasi aliquota base? No, la Tasi è stata già determinata dalla giunta uscente quasi ai massimi, al 3,2%, facendo molta grande confusione, perché l'hanno prima fissata in pagamento al 16 di giugno, poi hanno deciso in corso di prorogarla dopo che per giorni centinaia di persone si sono ritrovate a fare la fila per determinare gli importi, hanno pasticciato sulle aliquote, hanno fatto in modo che 3.000 famiglie che non pagavano l'IMU nel 2012 si siano trovate a pagare la Tasi. Adesso purtroppo noi avremo modo di rimetterci le mani soltanto a partire dal 2015. Dal prossimo bilancio. Un'ultima domanda gliela devo fare, perché poi lei è un frequentatore della rete di Twitter, lei lo sa che la stanno prendendo in giro in questi minuti. Perché allora, lei era in camicia bianca e maniche arrotolate come Obama, la sua signora la sera della vittoria era vestita come Michelle al secondo mandato, dico, era, ma come bene, l'avete fatto io, apposta? Cioè, in camicia bianca ci sto da tanto tempo, insomma, prima fosse di Obama. E Cristina invece ieri sera ha messo un vestito così, ha portato fortuna, quindi Non l'ha scelto a caso, cioè l'ha scelto come portafortuna. No, l'ha scelto con intenzione, tra l'altro l'aveva messo anche la sera dello spoglio del primo turno. Grazie Giorgio Gori, buona giornata e buon lavoro naturalmente. Mario Mantovani, assessore alla sanità della Lombardia, eccoci, bentornato. Buongiorno. La chiamiamo sempre per stamina alla fine. Allora, sono ricominciate le infusioni, le fa Mariano Andolina, vicepresidente di Stamina Foundation agli ospedali civili di Brescia, tra l'altro indagato per truffa e associazione a delinquere dalla procura di Torino. Mantovani, voi non potete far niente come regione, visto che la responsabilità della sanità è vostra? Sì, noi abbiamo una responsabilità di ordine organizzativo e quindi non di ordine legislativo, per cui non abbiamo potestà legislativa e non possiamo contrapporci né alle ordinanze della magistratura né tantomeno alla legge che prevede che proseguano le infusioni come approvato l'anno scorso su proposta del ministro di allora. Io sono convinto che siamo di fronte a una profonda contrapposizione interna alla magistratura. Quando io ho parlato di cortocircuito un mese fa non ero molto ascoltato e invece adesso vediamo che un tribunale ordina addirittura di invia un commissario ad acta per fare le infusioni e chi nomina addirittura qualcuno che è indagato da un altro pezzo di magistratura. E questa è la situazione attuale. Ha l'impressione che il governo, meglio, il famoso comitato stia andando un po' troppo lentamente, il comitato che deve decidere su Stamina? Guardi, non solo, non si è ancora riunito. Io il 28 aprile ho scritto al Presidente della Repubblica, ho mandato una nota di preoccupazione sugli eventi di Stamina. E il Presidente della Repubblica ha trasmesso la mia nota al Consiglio Superiore della Magistratura e al Ministro della Giustizia. Non ho ancora avuto risposte. Ho scritto una seconda lettera il 4 di giugno al Presidente del Consiglio a questo punto e per conoscenza al Ministro della Salute e al Ministro della Giustizia per chiedere lumi su una situazione così grave. Perché da un lato abbiamo dei bambini che vengono sottoposti a infusioni di cui non se ne conosce sul piano scientifico la valenza. Dall'altro abbiamo l'ordine di alcuni magistrati di effettuare e francamente siamo in una vera e grave difficoltà. Allora, grazie Mario Mantovani, assessore alla sanità, e vedremo di approfondire nei prossimi giorni questa vicenda, perché effettivamente è fondamentale che il governo intervenga. Effettivamente ha dell'assurdo. Grazie Mantovani, ci fermiamo, tra poco la borsa. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Sarà una ristrutturazione dolorosa, dice l'amministratore delegato di Alitalia del Torchio, che annuncia 2200 esuberi per l'accordo con Etihad. Al Movimento 5 Stelle, Livorno e Civitavecchia, Forza Italia, Perugia, il PD, Bergamo e Pavia. Questo un quadro parziale, naturalmente, dei ballottaggi. Nuovi arrivi di immigrati sulle coste italiane, sono 50.000 dall'inizio dell'anno, furono 42.000 per l'intero 2013. La borsa. Borse in diretta. FTSE MIB meno 0,02%, praticamente immobile. FTSE OCER meno 0,07%, e più o meno la stessa situazione la troviamo anche nel resto d'Europa, con Francoforte che guadagna lo 0,09%, Parigi cede lo 0,08%, Londra guadagna lo 0,22%. Andrea Fontana, Radio Cuore, Il Sole 24 Ore, buongiorno. Buongiorno. Mi sembra che il fatto che lo spread è arrivato oggi sotto o a ridosso ai 135 punti non abbia mosso più di tanto il mercato, no? Beh no, soprattutto i bancari italiani sono partiti positivamente questa mattina e poi hanno un po' rallentato, anche perché veniamo da un paio di sedute di forte euforia soprattutto sul settore. C'è stato anche l'annuncio dell'approvazione dell'aumento di capitale della Popolare dell'Emilia Romagna nel weekend, che ha un po' pesato, che sta pesando sul titolo e perde oltre il 2%, quindi diciamo che si è andato un po' più sui realizzi sul settore finanziario piuttosto che cavalcare l'onda dello spread come tu citavi. Brevissimamente il Monte dei Paschi. Beh, Monte dei Paschi sta vivendo un piccolo giallo nel primo giorno dell'aumento di capitale, il prezzo, il titolo segna un teorico di più 20%, ma in realtà non ha mai superato l'asta d'apertura, quindi non ha mai definito un prezzo di apertura. Ci sono stati forti volumi scambiati, per questioni tecniche ci sarà una forte corsa al titolo, ma appunto stiamo ancora aspettando che definisca un prezzo di apertura, che naturalmente è una volatilità che si è già vista in occasione di aumenti di capitale così importanti e così diluitivi come quello del Monte dei Paschi. Ricordiamo che parte oggi un aumento di capitale da 5 miliardi. Grazie Andrea Fontana, Radio Cuore, Il Sole 24 Ore, buona giornata. Grazie a voi, buona giornata. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. E sentiamo Daniele Biacchessi sui ballottaggi. Ai ballottaggi per le elezioni amministrative di ieri, il Partito Democratico non ha fatto il pieno che attendeva dal suo elettorato. Sarà stata l'astensione annunciata, che però è strutturale in tutti i doppi turni. Saranno stati i primi effetti dell'inchiesta sul Mose di Venezia, che coinvolge personaggi di primo piano del partito, ma il risultato brucia davvero. Dopo 68 anni ininterrotti di giunte di sinistra, Livorno va al Movimento 5 Stelle. La rossa a Perugia si sposta verso il centro-destra. Padova, lo storico laboratorio del centro-sinistra nel Bianco Veneto, ora è della Lega, alleata con tutte le anime del centro-destra. È vero che aumentano i centri amministrati dal PD, da 112 comuni superiori si è passati a 141 e da 16 capoluoghi ora il centro-sinistra ne governa ben 19. È altrettanto certo che il centro-destra perde 46 grandi comuni, tra cui Pavia, che passa al centro-sinistra. Ma i dirigenti del PD sbaglierebbero a sottovalutare i segnali forti che giungono soprattutto da Livorno e da Padova. Prendiamo il caso di Livorno, il cuore della Toscana rossa. Qui il candidato del Movimento 5 Stelle, Filippo Nogarin, ha cercato e poi ottenuto i voti di una parte della sinistra radicale e alla fine con quei voti ha vinto, superando Marco Ruggeri del PD, giudicato dalla maggioranza dell'elettorato un uomo vecchio e di apparato. Così come Matteo Renzi farebbe male a non comprendere l'effetto di un cosiddetto elettorato liquido che non vota più secondo vecchie logiche di appartenenza e di schieramento e si sposta liberamente senza seguire ordini di scuderia. Quell'elettorato liquido e ballerino che in poche settimane ha dato un credito smisurato al Partito Democratico alle elezioni europee e che poi lo ha ridimensionato in sede amministrative. È proprio questa la nuova tendenza della politica italiana. Antonio Cozzolino, neo sindaco di Civitavecchia del Movimento 5 Stelle, benvenuto ai nostri microfoni, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, come interpreta questa sua vittoria? Se l'aspettava? Ma io me l'aspettavo sì, però non me l'aspettavo in questo modo, nel senso che alla fine poi al ballottaggio la percentuale sul sindaco uscente è stata alta, perché noi 66 addirittura avete 66, preso. Loro 34, percentuale di questa portata non me li aspettavo. Però insomma il lavoro sul territorio ha portato... Evidentemente ha funzionato, c'è stato anche un po' di voto di protesta probabilmente, Cozzolino, secondo lei? Sì, assolutamente, sarei un ipocrita a negarlo, c'è stato sicuramente un voto di protesta... che è stato contro quel modo di fare politica che l'ex sindaco comunque rappresenta. Sì. Comunque parliamo di una persona che 43 anni che sta in politica. Senta una cosa, Cozzolino, le prime tre cose da sindaco, cosa vuole fare? Allora, io vorrei cercare di sistemare alcuni problemi che secondo me potrebbero fare di Civitavecchia. Velocemente, ce li dica in punti, le prime tre cose che vuole fare. Sono la raccolta differenziata porta a porta, che è stata fatta in tre quartieri ma ancora deve partire in maniera organica, sistemare il problema dell'acqua che da noi è insomma annoso soprattutto per la parte alta della città, e poi cercare di sistemare la questione delle partecipate che purtroppo creano enormi problemi al bilancio comunale. E in che modo? Allora, per la differenziata porta... No, non la differenziata, le municipalizzate mi interessa. Le municipalizzate dobbiamo fare tesoro degli emendamenti al patto di stabilità e cercare di riorganizzarle con una pianta organica che sia sensata, perché in precedenza sono state fatte molte assunzioni tipo clientelare, quindi l'organico è cresciuto a dismisura. Adesso bisognerà brevemente, Cozzolino, in una battuta, bisognerà licenziare nelle municipalizzate? Io non penso. Il commissario prefettizio che c'era prima ha individuato 38 esuberi, tutti nel comparto amministrativo. Sì. Io cercheremo con la giunta di fare in modo di ridurre al minimo questi esuberi e portarli a zero. Grazie Antonio Cozzolino, neosindaco di Civitavecchia. Un altro che forse non se lo aspettava è Andrea Romizzi, neosindaco di Perugia, 35 anni, di Forza Italia. Mai successo dal 46 che passasse un'amministrazione di centrodestra a Perugia. Buongiorno Romizzi. Buongiorno a voi, buongiorno a voi. Se l'aspettava, no? Diciamo, probabilmente non con questo tipo di risultato. Okay. Avevamo il sentore che la città, che nella città qualcosa si fosse attivato e quindi c'era un clima particolare, un'aria strana. Però ecco, neanche noi pensavamo poi di poter raggiungere una percentuale di questo tipo. No, non ve lo aspettavate. Naturalmente ha contato un po' di astensione, ma insomma lo diciamo sempre, gli astensionisti, cioè è gente che decide di non andare a votare, quindi a tutti gli effetti insomma siete riusciti. Credo che anche quella sia una manifestazione di una propria inclinazione. Senti una cosa, stessa domanda che abbiamo fatto a Cozzolino, che abbiamo fatto prima a Giorgio Gori, che è stato anche lui ospite nostro. Le prime tre cose che vuole fare, ce le dica in tre punti molto veloci. Affrontare delle criticità annose che in questi anni non sempre abbiamo riuscito in maniera adeguata ad affrontare, quali quella della sicurezza e del degrado di alcune aree urbane. La necessità di riaprire le porte del palazzo, quindi di reinterloquire con le principali realtà economiche, sociali e culturali di questo territorio e con esse dare anche una prospettiva di lungo termine ad una città che è rimasta purtroppo un pochino al palo. E terzo aspetto è quello di internazionalizzare questo territorio e dare delle risposte anche al nostro tessuto produttivo. L'ultima domanda invece che le voglio fare è se insomma come ci si trova dentro questo partito, perché io penso, se penso a un sindaco giovane di una città come lei all'interno del centrodestra, mi viene in mente Cattaneo, che è passato per rottamatore e adesso come dire, abbiamo sentito poco fa, non ha ricevuto come dire, il consenso della città che si aspettava. Partito, un centrodestra da rifondare, Romizzi? È un centrodestra che sicuramente deve rigenerarsi, questo è in dubbio. Oggi noi paghiamo una frammentazione, paghiamo la non condivisione di un percorso. Noi dobbiamo non solo ritrovare l'unità, ma dobbiamo anche rifondare il centrodestra su quei principi che perlomeno all'origine erano nelle nostre corde, anzi erano proprio con Berlusconi o senza? Io credo che noi, ovviamente la leadership di Berlusconi c'è, una leadership importante, fa parte della nostra storia, ma dobbiamo anche avere la capacità di far crescere una nuova classe politica che abbia delle responsabilità, che sia nel territorio fatta valere, fatta conoscere anche per delle proprie capacità. Fitto le piace? Fitto le piace? Ma io non ho un approccio sulle persone. Io credo che debba essere affermato un principio meritocratico. Benissimo, meritocratico. Allora la ringrazio, grazie Andrea Romizzi, neo sindaco di Perugia, in bocca al lupo anche a lei naturalmente per il lavoro che deve fare, c'è il traffico e poi come sempre Platero. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Ed è il momento di Mario Platero. America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York. Mario Platero. Avete sentito i rumori, gli spari, le urla, le abbiamo riprese da un video che è stato filmato all'aeroporto di Karachi, dove c'è stato ieri notte un attentato che si è chiuso tra l'altro appena poche ore fa con l'uccisione dell'ultimo attentatore. Beh, voi direte, ma Karachi è lontana, cosa c'entra Karachi con gli Stati Uniti? Beh, c'entra tutto, perché il Pakistan, come sapete, è potenza nucleare e perché l'attacco sembra quasi sicuramente che sia stato condotto da un gruppo di militanti talebani, quindi di estremisti islamici talebani. È stato, come dire, un attacco in grande stile, perché è cominciato con una finta questo gruppo. Pensate, erano addirittura 11 i terroristi, erano vestiti con delle uniformi, si sono presentati in un ingresso secondario dell'aeroporto e dicendo che loro erano così degli agenti per la protezione e per la tutela dell'ordine, e naturalmente i controlli li hanno fatti passare. Erano armati fino ai denti con delle granate, con delle bombe a mano, con dei fucili, con dei mitra. Molti di loro avevano addirittura dei giubbotti esplosivi per farsi esplodere, cosa che poi in effetti a un certo punto è successa. Ecco, arrivano all'aeroporto, gli spari, la tragedia, devo dire che è un miracolo che non ci siano stati più morti, ci sono circa una ventina di feriti, 13, alcuni molto gravi naturalmente, e 13 morti, ma di questi 13, 10 sono delle forze dell'ordine, perché le forze dell'ordine sono subito intervenute, in ritardo, dicono i critici, ovviamente, di quello che è successo. Si dice che le autorità pakistane avrebbero dovuto sapere prima, attraverso il controspionaggio, che cosa si stava preparando, che comunque le forze dell'ordine non possono lasciare entrare dei terroristi in questo modo, e così via, così via. Però il risultato è che 11 dei morti sono degli agenti antiterrorismo, per cui qualche cosa ha funzionato. Ecco, ma qual è la dimensione politica di questa vicenda? Ve lo accennavo prima, ce ne sono almeno due o tre che riguardano gli Stati Uniti, e cioè il Pakistan è ovviamente un interlocutore chiave per quello che succede in Afghanistan. Il primo ministro pakistano Nawaz Sharif aveva cercato di negoziare un accordo con i talebani, una specie di cessate il fuoco, perché c'è un forte movimento di talebani. Questi talebani sistemano ai confini con l'Afghanistan e da lì fanno attentati sia in Afghanistan che in Pakistan, per cui ricorderete quante missioni di droni ci sono state in territorio pakistano che però andavano a colpire dei nuclei talebani. La situazione dunque è difficile, complessa, molto delicata, e a questo punto non è chiaro che sviluppo ci sarà. Di certo il Pakistan è in questo momento molto instabile dal punto di vista politico. Una delle idee che preoccupa molto il Consiglio per la Sicurezza Nazionale della Casa Bianca è che i talebani possano montare una specie di rivolta popolare per prendere il potere addirittura in Pakistan, e immaginate quale sarebbe il disastro, visto che, come vi dicevo, il Pakistan è potenza nucleare e i talebani attaccano senza pietà. Avevano ucciso, pensate, appena pochi giorni fa un gruppo di 23 pellegrini sciiti che erano rientrati dall'Iran, dove erano andati appunto in pellegrinaggio, in un altro attentato. Quindi c'è anche una lotta interna fra islamici sunniti e sciiti, e questa situazione l'abbiamo alla fine di quello che è stato la settimana scorsa il viaggio di Barack Obama, che doveva essere un viaggio del ricordo in Europa, il ricordo di quello che è stata la Seconda Guerra Mondiale, le tragedie della guerra, un tentativo di avviare un dialogo negoziato tra l'Ucraina e la Russia, cosa che poi è avvenuta venerdì durante le straordinarie commoventi celebrazioni che ci sono state in Normandia. Come ricorderete, poi il presidente Poroshenko dell'Ucraina, e che nel frattempo si è insediato sabato, e Vladimir Putin si sono parlati, l'idea è di cercare un cessate il fuoco, quindi un progresso quantomeno teorico da una parte, ed ecco che esplode invece una crisi dall'altra. Crisi preoccupante perché per l'interno, dal punto di vista americano? Perché questi talebani, come sapete, ne abbiamo parlato la settimana scorsa, sono al centro di una forte polemica all'interno degli Stati Uniti. Well, I think while all of us are incredibly relieved that, ecco, avete sentito il senatore McThormery, un repubblicano, che attacca Barack Obama sul fronte proprio dei talebani. Perché? Perché ricorderete che la settimana scorsa il governo americano ha annunciato il rilascio di 5 prigionieri talebani che erano detenuti a Guantanamo in cambio della liberazione di un prigioniero americano, l'ultimo prigioniero americano nelle mani dei talebani, Owen Bergdahl. Ecco, questa polemica continua negli Stati Uniti. Questa mattina il New York Times ha un articolo in cui si esamina come questo accordo fatto dall'amministrazione con i talebani ha creato dei forti problemi anche al governo afghano. E perché? Perché nel momento in cui tu negozi con una controparte, nel momento in cui si distribuisce un video in cui si vede come gli americani si stringono le mani con i talebani, fanno questo scambio di prigionieri, eccetera, eccetera, si riconosce una qualche forma di autorità ai talebani, un qualche ruolo ai talebani, cosa che il governo afghano invece voleva in qualunque modo respingere. I talebani sono un gruppo terrorista con cui non si dialoga. E il senatore McThornberry torna su questo punto aggiungendo ovviamente altri elementi. Dice, io sono molto contento che abbiamo liberato un prigioniero americano, però abbiamo negoziato con dei terroristi, soprattutto abbiamo rilasciato 5 terroristi pericolosissimi, perché erano dei capi, erano dei mastermind questi 5 talebani che sono stati rilasciati. Che cosa andranno a fare? Quali altri attentati andranno a condurre? Ecco, queste sue osservazioni di oggi ovviamente vengono amplificate enormemente dal fatto che vediamo quanto attivi siano i talebani sul fronte terroristico con quello che è successo all'aeroporto di Karachi. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Siamo in apertura di settimana, quindi direi di darvi la canzone numero uno nella classifica di Billboard delle Hot 100, delle prime 100 canzoni americane. Questa è la numero uno di Iggy Azalea con Charlie XCX. Fancy, Iggy Azalea. On my wrist, taking all the liquor straight, never chase that, never. Rooftop like we bringin' 88 back. What? Bring the hooks in where the bass at. Champagne spilling, you should taste that. I'm so fancy, you already know. I'm in the fast lane, from LA to Tokyo. I'm so fancy, can't you taste this? Da New York è tutto, Mario Brotero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. America 24. Ed è tutto per Effetto Giorno, un ringraziamento a Fabio Cantadori in regia, Anita Panizza in assistenza e in redazione, tutta la redazione di Radio 24 come sempre. Noi ci risentiamo tra un attimo con GR 24, come sempre alle 14. Effetto Giorno torna domani alle 13. Effetto Giorno a radio24.it per scriverci. A tra poco.